e catene di ferro io darò al piede di chi nel biondo crine d'oro il mio cor le porge. Metegli a sol di Roma, anzi del mondo, sappi che per te moro. All'amor mio corrispondi pietoso, giura l'odio ai latini e al tuo gran padre ti chiederò in sposo. A uscire della merinto l'amore che egli mi scopre, all'amor che io nel seno infino porge. Lucio, lodo l'amore, stimo il consiglio, la pesante catena di porta al genitore, chiedi tu le mie nozze, e da momenti dico al paterno piede, io dirò quanto cerca e quanto chiede.